Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuova puntata dal mondo della scuola, ben trovati ancora da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Con me in studio Don Edmondo Lanciarotta, che è responsabile della commissione del Triveneto per scuola, educazione e università. Bentornato da Roma. Grazie, sì, bentrovati tutti, sì, da Roma. L'esperienza abbiamo fatto il 3 e 4 di maggio. È un'esperienza che era un laboratorio nazionale, la Chiesa nella scuola, giusto? Sì, all'interno del decennio centrato sulla sfida educativa, ecco, la presidenza della conferenza episcopale ha assunto la questione della scuola e dell'educazione e ha avviato in questi giorni, 3 e 4 maggio, un processo chiamato la Chiesa per la scuola. Questa presidenza, con il Cardinal Bagnasco e anche con il segretario Monsignor Crociata, ha avviato questo processo. E chi sono coinvolti? Innanzitutto due commissioni, la Commissione Episcopale Scuola, Educazione e Università e la Commissione per la Famiglia. E poi quattro uffici, l'ufficio Scuola, Educazione e Università, l'ufficio della Famiglia e poi due servizi, il servizio degli RC e il servizio dei giovani. Gli RC, spieghiamo per i non addetti ai lavori. L'insegnamento della religione cattolica. Ecco, tutti questi settori sono stati coinvolti per questo processo dove si cerca di evidenziare l'attenzione, la sollecitudine, la preoccupazione, l'attenzione della Chiesa per il mondo della scuola. Quando diciamo scuola, però, diciamo tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione, quindi tutto il percorso liceale, tutto il percorso degli istituti tecnici professionali e tutto il percorso anche della formazione professionale. E diciamo anche tutto il sistema delle scuole statali e scuole anche paritarie. Vedere come questa realtà, ecco, all'interno del decennio sia importante per rispondere alle sfide educative. L'hanno chiamato un laboratorio che adesso spiegheremo come si è realizzato, in vista di un grande evento che si celebrerà, ecco, nel settembre prossimo, nella settimana sociale dei cristiani, di cui un capitolo sarà riservato a queste questioni educative della scuola. E poi il prossimo anno, nella primavera del prossimo anno 2014, un evento di grande manifestazione, ecco, forse nella piazza San Pietro, con la presenza anche del Papa, ecco. E poi tutto questo materiale, tutto questo lavoro che sarà anche distribuito e sarà oggetto di riflessioni e di discussioni nelle varie conferenze episcopali regionali con le commissioni specifiche in questi mesi, dovrà, speriamo, confluire in quello che è il convegno nazionale ecclesiale che viene fatto ogni 10 anni. L'ultimo è stato fatto nel 2006 a Verona. Ecco, il prossimo è fissato nel 2015 a Firenze. Ecco, i giorni del 3 e 4 maggio la Chiesa per la scuola ha avviato questo processo. E allora, prima di proseguire anche il racconto di questi giorni, sentiamo una breve intervista al presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco. Vorremmo una prima cosa fondamentale, che è un dato di fatto, e cioè che l'opinione pubblica fosse meglio informata circa il carattere pubblico delle scuole paritarie, come viene ormai dal 2000 stabilito per legge. Questo a volte non si mette in rilievo, si parla sempre di scuola statale e di scuola privata, sono due categorie che non sono corrette. Ora, dentro a questo sistema scolastico, educativo scolastico, si esercita la libertà dei genitori. La Chiesa Cattolica, attraverso le scuole che gestisce, intende offrire, seppure con grandissimi sacrifici e con grande risparmio da parte dello Stato, proprio perché gli alunni nelle scuole, almeno cattoliche, non so nelle altre, costano moltissimo di meno, in termini gestionali intendo dire, tutta la sua esperienza per servire i genitori, la famiglia e quindi anche la società. Ecco, sono concetti che noi andiamo dicendo da molti anni, ma che a livello di dibattito nazionale forse è il caso di rilanciare, lo ha fatto lo stesso Cardinale, no? Sì, questo però è un capitolo. Quello che il Cardinale ha presentato è un capitolo che voi avete estrapolato. Ma, ecco, ed è anche un rischio questo però, che il convegno non ha sottolineato solamente questo è un aspetto, ma ha sottolineato la partecipazione, l'interesse, il coinvolgimento, la passione della Chiesa, di tutta la Chiesa, rappresentata appunto anche dalla presidenza del Cardinale Bagnasco, per tutta la scuola, tutto il sistema, e quindi cogliere i molteplici nodi problematici. Difatti questo laboratorio si è strutturato anche con 10 gruppi di lavoro che hanno tentato di evidenziare la complessità di questo mondo, per esempio l'educazione, gli insegnanti, le generazioni, l'Europa, l'alleanza educativa, la comunità, l'autonomia, l'umanesimo. Queste sono alcune parole, ecco, che sono state oggetto di riflessione all'interno di questo laboratorio, di cui, ripeto, un capitolo è quello, l'annosa questione della parità. Ma noi non vogliamo solamente fermarci a questo, ma vogliamo fare in modo che l'opinione pubblica sia coinvolta a capire che non interessa la scuola come bene di tutti, bene comune, e se non c'è un impegno per fare in modo che questa possa svolgere il proprio ruolo educativo, chi ne deperisce è la società tutta, a partire dai giovani. E allora continuiamo a parlarne tra poco, prima pausa e poi ancora insieme dal mondo della scuola. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Pensarti stanca, non pensarti mai, è tardi e forse non vuoi, anche se ti cerco, non mi sentirai. Coprirò le distanze per venire da te, misurando le forze quando vento non c'è. In un giorno di sole volerò via da qui, sono ferro e cartone queste mie nuove ali. Passano mai uno dopo l'altro, dimenticherai, ritorni, a volte lo fai, anche se ti sento, non risponderai. Coprirò le distanze per venire da te, quando vento non c'è, in un giorno di sole volerò via da qui, sono ferro e cartone le mie ali, e così fare in modo che il viaggio sia il più breve che so, e trovare quel coraggio da te tornerò, dovrò fare attenzione. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Torniamo insieme dal mondo della scuola, puntata di resoconto del laboratorio del 3-4 maggio a Roma, laboratorio nazionale La Chiesa nella Scuola, che si è occupata di tutta la scuola, non solo evidentemente di quella di ispirazione cristiana. Ci sta facendo un po' da testimone, da partecipe diretto Don Edmondo Lanciarotta. Un tuo parere anche sulla partecipazione, di come i presenti dalle varie parti d'Italia, noi conosciamo bene la nostra situazione veneta, ma anche il dialogo che c'è stato, insomma, tra nord, sud e centro, anche su questo ci sono differenze, no? Sì, grandi differenze. Noi nel nord-est abbiamo una tradizione, ecco, sotto questo aspetto qui. Eravamo presenti una trentina di rappresentanti, le altre regioni un po' meno. Comunque complessivamente poi erano rappresentanti anche le aggregazioni a livello nazionale. C'era una buona partecipazione a livello anche nazionale. I laboratori, ecco, sono stati anche molto partecipati. C'è stata anche la necessità di controllare e di monitorare e di dare un tempo specifico per dare la possibilità a tutti di poter intervenire. Ecco, i laboratori indicavano anche la complessità della questione e anche un punto di base, un punto partenza per stilare un documento che dovrebbe diventare poi base comune per la riflessione a livello nazionale. Quindi quelle parole che prima io citavo sono state poi elaborate, contestate, criticate, approfondite, per poter fare in modo che diventi uno strumento, quasi un vocabolario da utilizzare, su cui partire e quindi evitare la dispersione, lo scontato, evitare la superficialità dei concetti e dare anche una maggiore anche concretezza alla questione. E allora sentiamo un altro contributo, il presidente della Commissione Episcopale Educazione, Scuola e Università, Monsignor Gianni Ambrosio. La centralità va agli studenti innanzitutto, ma naturalmente gli insegnanti sono quella risorsa che è un bene primario fondamentale su cui investire, perché possano insieme alla famiglia svolgere il compito educativo attraverso appunto l'insegnamento, attraverso la didattica e in stretta alleanza con il territorio, con gli enti locali, con le varie forme organizzative anche di sport, di parrocchia e di oratorio. Se non stringiamo i vari nodi della realtà, non riusciamo davvero a dare spazio a quella crescita educativa che è fondamentale per la nostra vita. Ecco, appunto, Monsignor Ambrosio diceva, metteva insieme tutto, è tutto l'insieme della società che deve convergere. Quindi per creare una società educativa, per creare una comunità educativa, per creare una chiesa educativa, per creare una scuola educativa, una famiglia educativa, un'alleanza educativa. Ecco, è un capitolo fondamentale anche questo nel documento degli orientamenti per il prossimo decennio. Questo è un tentativo. Questo è un tentativo importante. Tra i presenti c'è un altro testimone che salutiamo, è qui in studio con noi, professor Lino Sartori, bentornato. Buongiorno, grazie, buongiorno. Dunque, un suo parere intanto su questa due giorni intensissima, a quanto capisco. Sì, è stato veramente un laboratorio, nel senso che le circa 300 e forse più persone presenti hanno potuto, soprattutto nei moduli di lavoro per gruppo, cioè quei moduli a cui faceva riferimento Don Edmondo, che hanno lavorato sulla decina delle parole chiave, ecco, ripeto, lavorando in quei gruppi, ognuno ha potuto esprimere la ricchezza delle proprie posizioni, sia teoriche che pratiche, frutto dell'esperienza, perché ognuno era portatore di un'esperienza o come educatore nel mondo della scuola o come educatore nel contesto della famiglia o delle associazioni. Quindi la cosa bella di questo laboratorio è stato appunto il confronto fra una miriade di idee, di proposte, di suggerimenti anche molto pratici, che speriamo possano essere messi a disposizione di tutti coloro che si interessano del problema educativo. Era la prima, cioè c'era già stata fatta un'esperienza simile con questa intensità, oppure è la prima occasione? No, questa è la prima. Noi l'abbiamo volutamente forzata, desiderata e proposta, e finalmente ecco, è stata assunta non da un aspetto, da una commissione solamente, ma è stata dalla presidenza, questa è la novità. Quindi potete dire è la Chiesa italiana, nella sua presidenza, che assume questo come problema pastorale, come questione e anche come ambito di pastorale e quindi anche come opportunità di evangelizzazione. Ecco questo aspetto qui. Allora, anticipiamo brevemente l'ultima pausa per poi tornare ancora nei concetti espressi a Roma pochi giorni fa e anche nelle prospettive per il futuro. Dal mondo della scuola. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola. Stiamo raccontando il recentissimo laboratorio nazionale La Chiesa nella scuola con Don Edmondo Lanciarotta e Lino Sartori. Più che la Chiesa nella scuola, la Chiesa per la scuola. Sì, perché... per la, anche nella scuola, sì. Sì, ma anche per la scuola. Cioè, oltre a essere presente nel mondo della scuola, si assume la responsabilità di prendersi cura del mondo della scuola, quindi per la scuola, a favore, il farsi carico. Ecco. E ricordiamo la scuola tutta. Sì. Prima abbiamo già sentito i contributi del presidente della CEI, Cardinale Bagnasco, che ricordava l'aspetto delicato della parità, il fatto che l'interesse sia rivolto innanzitutto agli alunni, ai ragazzi, Monsignor Gianni Ambrosio. Ora sentiamo un altro piccolo contributo, colui che volle l'autonomia, colui che portò anche alla famosa legge 62 del 2000, l'allora ministro Luigi Berlinguer. Noi abbiamo fatto la legge sull'autonomia, abbiamo pensato che le scuole debbano essere autonome dentro l'ordinamento del paese naturalmente, ma devono avere dei progetti educativi autonomi, caratterizzanti. La scuola di tutti è la scuola delle diversità e quindi ogni alunno è una realtà e ogni docente è anch'esso portatore di una propria specificità e questa è l'autonomia. Ebbene, il processo si è fermato. L'esistenza di una tendenza burocratica ancora e poi di una pura trasmissività dell'insegnamento, cioè come erogazione di informazioni culturali, piuttosto che come una conquista di ciascun alunno del proprio sapere, ha costituito un ostacolo molto grave. Percepisco un po' di amarezza nelle parole di Berlinguer, no? Cosa dite? Ovvio, è storica e dimostrata. Il processo di autonomia, come era stato inteso anche in un dibattito che era partito prima ancora della fine degli anni 90, voleva portare appunto a questo concetto che è bello a dirsi, però durante quel laboratorio del 3-4 maggio è stato ripreso dal vescovo Monsignor Crociata durante l'omelia di sabato mattina, di cui voglio richiamare soltanto due o tre brevissime idee. Crociata dice, e mi pare che sia proprio in linea con il concetto vero di autonomia, che cos'è fare educazione? Lui dice testualmente così: significa condurre la persona verso il mondo. Quando educo il fanciullo, l'adolescente, il giovane, ma anche l'adulto, cosa faccio? Lo porto verso il mondo. È forte questa idea, interessantissima, perché allora c'è tutta la ricchezza del mondo degli educatori, ma anche del mondo nuovo di coloro che vengono educati. In modo particolare Crociata diceva, in questo cammino della persona verso il mondo occorre salvaguardare e garantire sapere e saggezza, cioè non si può andare verso il mondo senza le scienze, le discipline, i metodi, il rigore, la creatività, ma ci vuole anche la saggezza, cioè aiutare queste persone, lui proprio usava il verbo, a penetrare nel senso profondo delle cose, dei fatti e della storia. Ecco, questo trinomio allora, educazione, sapere e saggezza, nel pensiero di Crociata, ma a me pare di poter dire anche come tema dominante del laboratorio di quei due giorni, potrebbe essere inteso, come si dice oggi, la cifra che ci viene consegnata nel cammino dei prossimi anni, che vedono ancora la società e la Chiesa italiana impegnate a riflettere sul tema dell'educazione. L'educazione, appunto, l'autonomia, e su questo appunto la Chiesa, in favore di tutta la scuola italiana, può dare un contributo importante. Era uno degli scopi, credo, di questo laboratorio. Difatti poi noi come Commissione del Triveneto e come tutte le altre commissioni delle varie regioni sono invitati adesso a prendere questo materiale prodotto in questi giorni, a studiarlo, analizzarlo, a creare momenti locali, sia diocesani sia anche regionali, di riflessione, di discernimento, di dibattito, cercando di coinvolgere un maggior numero di persone, protagonisti, sia singoli, sia associati, sia organismi, sia istituzioni, in maniera tale che ci si metta a confronto e sui temi reali si cerchi di alzare quella cultura della scuola che ancora non c'è, di promuovere il bene comune che ancora rischia di essere dimenticato, di creare alleanze per fare in modo che non solamente rispondere in maniera adeguata alle sfide, ma anche per poter fare in modo che le giovani generazioni trovino il senso per cui vivere, per cui lavorare, per cui impostare la vita ogni giorno. Abbiamo tempo per un ultimo contributo, guardando al di fuori dei nostri confini nazionali, oltre le Alpi, quindi cosa succede in Europa. Il tema dell'Europa era appunto uno dei laboratori su cui vi siete incontrati nei giorni scorsi. Sentiamo il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. Sicuramente i paesi scandinavi, a cominciare dalla Finlandia, dove tra l'altro la chiave, è importante sottolinearlo, del successo finlandese non sono solo maggiori soldi o maggiore tecnologia e soprattutto il ruolo sociale dell'insegnante. Insegnare in Finlandia è considerata la professione in assoluto più ambita. I migliori laureati vanno verso l'insegnamento. Ecco, se si arrivasse a questo punto in Italia avremmo risolto molti dei nostri problemi. Il problema è delle risorse? Non solo. Cioè le risorse noi spendiamo un po' sotto la media europea per la scuola, forse come le spendiamo che è più importante. Non per dire che l'erba del vicino è sempre più verde, però insomma è un punto di riferimento. Sì, lui era stato uno dei tre interventi introduttivi insieme anche con Elisa Manna, responsabile del Censis, e con professor Tibaldi, professore che ha dato il quadro, hanno dato il quadro un po' generale, sia con le statistiche, il confronto della scuola italiana nei confronti di quella europea, e sia anche all'interno delle politiche sociali e politiche anche educative. Ecco, una fotografia che domanda, che richiede, ecco, una nostra maggiore partecipazione e anche un non piangerci addosso, ma anche fare le nostre scelte politiche, constatando però purtroppo che anche nelle ultime elezioni politiche, ecco, tutti gli organismi e tutti gli schieramenti hanno abbandonato, dimenticato, lasciato perdere il tema della scuola, e questo non è un bel segnale. Ecco il loro motivo in più per la Chiesa stimolare la società affinché si prenda cura della scuola. E allora ricordaci i prossimi due grossi appuntamenti, quello di autunno e quello dell'anno prossimo. Sì, ecco. Sì, autunno a Torino e poi il prossimo è la primavera, e poi per quanto riguarda nel Triveneto il 23 di maggio faremo un incontro appunto della Commissione, valuteremo questi dati e tenteremo di vedere come poter far cadere queste problematiche a livello pastorale nelle nostre chiese del Triveneto. Grazie Don Edmondo Lanciarotta, grazie professor Lino Sartori, alla prossima. Grazie a voi. Buongiorno a voi, grazie. È di Daici in regia, Mirko Cavallini in studio, a tutti grazie per l'attenzione, appuntamento fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.